con la forza dell'amore. Confuso fra la folla, uno di quei periti della legge che non riuscivano più a riconoscere gli insegnamenti che erano stati rivelati a Mosè, poiché loro stessi li avevano ingarbugliati in una sterile casistica, ha rivolto una domanda al Signore. Gesù schiude le sue labbra divine per rispondere al dottore della legge e gli dice lentamente, con la sicura certezza che viene da una profonda esperienza personale: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande del primo, è il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge ai profeti. Osservate adesso un'altra scena. Il maestro è riunito con i suoi discepoli nell'intimità del cenacolo. Mentre si avvicina il momento della passione, il cuore di Cristo, circondato da coloro che ama, manda ineffabili bagliori di fiamma. Vi do un comandamento nuovo, confida ai suoi, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni e gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Per giungere vicino al Signore attraverso le pagine del Santo Vangelo, raccomando sempre di sforzarvi di entrare nella scena, in modo da parteciparvi come un personaggio fra gli altri. In tal modo, molte anime semplici e normali di mia conoscenza lo fanno con naturalezza, vi immedesimerete con Maria, che pende dalle parole di Gesù. Oppure, come Marta, avrete il coraggio di esporgli con sincerità le vostre inquietudini, anche le più minute. Signore, perché dici nuovo questo comandamento? Abbiamo appena ascoltato che l'amore verso il prossimo era prescritto già nell'Antico Testamento, e certamente ricorderete che Gesù all'inizio della vita pubblica aveva ampliato con divina generosità queste esigenze. Avete inteso che fu detto: amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Signore, consentici di insistere. Perché ancora chiami nuovo questo precetto? Quella notte, poiché prima di ammolarti sulla croce, durante quell'indimenticabile colloquio con coloro che, nonostante le loro miserie e debolezze personali così simili alle nostre, ti hanno accompagnato fino a Gerusalemme, tu ci hai rivelato la misura insospettata della carità, come io vi ho amato. Come ti capivano bene gli apostoli che erano stati testimoni del tuo amore insondabile. L'annuncio e l'esempio del Maestro sono chiari e precisi, ha sottolineato con le opere la dottrina. Tuttavia, molte volte ho pensato che dopo 20 secoli il comandamento continua ad essere nuovo, perché ben pochi sono gli uomini che si sono presi cura di metterlo in pratica. Gli altri, la maggioranza, hanno preferito e preferiscono non darsi per intesi. Con egoismo esasperato giungono a concludere: perché tante complicazioni? È troppo se riusciamo a badare a noi stessi. Questo atteggiamento è inammissibile per i cristiani. Se professiamo la stessa fede, se davvero vogliamo ricalcare le nitide impronte lasciate sulla terra dai passi di Cristo, non dobbiamo accontentarci di evitare agli altri il male che non auguriamo a noi stessi. Questo è già molto, ma è ancora poco, se capiamo che la misura del nostro amore è definita dal comportamento di Gesù. Egli inoltre non ci propone questa norma di condotta come una meta lontana, come il coronamento di tutta una vita di lotta. Deve esserlo, insisto, perché tu lo traduca in propositi concreti, il punto di partenza, perché Gesù, nostro Signore, lo addita come contrassegno. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Gesù Cristo, Signore nostro, si è incarnato e assunto la nostra natura per proporsi all'unanimità come modello di tutte le virtù. Imparate da me, è l'invito, che sono mite e umile di cuore. In seguito, quando spiega agli apostoli il segno da cui saranno riconosciuti come cristiani, non dice perché siete umili. Egli è la purezza più sublime, l'agnello immacolato. Nulla poteva macchiare la sua santità perfetta senza ombra. Eppure non dice: capiranno che siete miei discepoli perché siete casti e puri. ha camminato per il mondo nel più completo distacco dai beni della terra. Egli era il creatore e il signore dell'universo e non aveva neppure dove posare il capo. Ma non dice, vi riconosceranno come miei perché non siete attaccati alle ricchezze. Rimane per 40 giorni e 40 notti nel deserto, digiunando rigorosamente, prima di dedicarsi alla predicazione del Vangelo. E ancora non dice ai suoi, capiranno che servite il Signore perché siete, non siete mangioni né beoni. La caratteristica distintiva degli apostoli, dei veri cristiani di ogni tempo, l'abbiamo ascoltata. Da questo, proprio da questo, tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Trovo perfettamente logico che i figli di Dio siano sempre rimasti colpiti, anche tu ed io lo siamo in questo momento, da quel modo di insistere del Maestro. Il Signore non stabilisce come prova della fedeltà dei Suoi discepoli i prodigi e i miracoli strepitosi, benché abbia loro conferito il potere di compierli nello Spirito Santo. Che cosa dice loro? Capiranno che siete miei discepoli se vi aprirete reciprocamente. Pedagogia divina. Non odiare il nemico, non rendere male per male, rinunciare alla vendetta, perdonare senza rancore. Era considerato a quel tempo, ma anche oggi, non illudiamoci, un comportamento insolito, troppo eroico, fuori dall'ordinario. La meschinità delle creature giunge a tali estremi. Gesù Cristo, che è venuto a salvare tutte le genti e vuole rendere partecipi i cristiani della sua opera di redenzione, ha voluto insegnare ai suoi discepoli, a te e a me, una carità grande, sincera, più nobile e preziosa. Dobbiamo amarci reciprocamente come Cristo ama ciascuno di noi. Soltanto così, imitando, per quanto consentito dalla nostra rozzezza personale, il comportamento divino, riusciremo ad aprire il nostro cuore a tutti gli uomini e ad amare in modo più alto e totalmente nuovo. I primi cristiani hanno saputo mettere in pratica molto bene l'ardore di questa carità, che superava di gran lunga le vette della semplice solidarietà umana o della benignità di carattere. Si amavano fra di loro, dolcemente e con fortezza, a partire dal cuore di Gesù Cristo. Scrivendo nel secondo secolo, Tertulliano ha riportato che i pagani, commossi nel vedere il comportamento dei cristiani di allora, pieno di attrattive soprannaturali umane, ripetevano: guardate come si amano. Se ti accorgi che tu, adesso, in tante altre occasioni della giornata, non meriti questa lode. Che il tuo cuore non corrisponde come dovrebbe alle richieste divine, renditi conto che è giunto il momento di rettificare. Accogli l'invito di San Paolo. Operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli della fede, verso coloro che appartengono alla nostra stessa famiglia, al corpo mistico di Cristo. L'apostolato principale che noi cristiani dobbiamo svolgere al mondo, la migliore testimonianza di fede, è contribuire a far sì che all'interno della Chiesa si respiri il clima della carità autentica. Se non ci amiamo davvero, se ci sono conflitti, calunnie, discordie, chi si sentirà attratto da coloro che affermano di predicare la buona novella del Vangelo? È molto facile. Molto di moda proclamare a parole il proprio amore per tutti gli uomini, credenti o non credenti. Ma se chi fa queste affermazioni tratta male i suoi fratelli nella fede, temo che le sue parole non siano altro che chiacchiere ipocrite. Invece, quando amiamo nel cuore di Cristo coloro che con noi sono figli dello stesso Padre, consociati nella stessa fede e coeredi della stessa speranza, la nostra anima si dilata e arde dal desiderio che tutti si avvicinino al Signore. Mi sto rammentando le esigenze della carità, e forse qualcuno di voi può aver pensato che nelle mie ultime parole manchi proprio questa virtù. Ma non è affatto vero. Vi assicuro che con santo orgoglio e senza falsi ecumenismi mi sono sentito pieno di gioia quando nel Concilio Vaticano II si delineava con rinnovata intensità la preoccupazione di portare la verità a coloro che seguono strade diverse dall'unica via, quella di Cristo, perché l'ansia per la salvezza di tutta l'umanità mi consuma. Sì, è stata molto grande la mia gioia, anche perché vedevo nuovamente confermato un apostolato tanto amato dall'Opus Dei, l'apostolato ad fidem, che non respinge nessuno e ammette i non cristiani, gli atei, i pagani a partecipare, per quanto possibile, dei benefici spirituali della nostra istituzione. Tutto questo è una lunga storia di dolore e di lealtà che vi ho raccontato altre volte. Per questo vi ripeto senza timore che ritengo ipocrita, bugiardo, lo zelo che induce a trattare male i lontani, mentre si calpestano, si disprezzano coloro che vivono la nostra stessa fede. E non credo neppure al tuo interessamento per l'ultimo povero della strada, se maltratti i tuoi familiari. Se resti indifferente alle loro gioie, ai loro dispiaceri, ai loro dolori, se non ti sforzi di capirli e di sorvolare sui loro difetti, purché non siano di offesa al Signore. Non è commovente che l'Apostolo Giovanni, ormai anziano, utilizzi la maggior parte delle sue lettere per raccomandarci di comportarci secondo questa dottrina divina? L'amore che deve unire i cristiani fra di loro nasce da Dio, che è amore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Si sofferma sulla carità fraterna perché Cristo ci ha resi figli di Dio. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. E mentre scuote con forza le nostre coscienze per rendere più sensibili alla grazia divina, insiste sulla prova meravigliosa dell'amore del Padre per gli uomini. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per Lui. Il Signore ha preso l'iniziativa e ci è venuto incontro. Ci ha dato questo esempio affinché con Lui ci applichiamo al servizio del prossimo, affinché, mi piace ripeterlo, stendiamo generosamente il nostro cuore sul pavimento per consentire agli altri di camminare sul soffice e risulti loro più gradevole la lotta ascetica. Dobbiamo comportarci così perché siamo resi figli del medesimo Padre, di un Padre che non ha esitato a darci il suo Figlio amatissimo. La carità non siamo noi a costruirla, ci invade con la grazia di Dio, perché è stato Lui ad amarci per primo. Ebbene, lasciarci compenetrare da questa bellissima verità. Se possiamo amare Dio è perché siamo stati amati da Dio. Tu e Dio siamo in grado di riversare affetto su chi ci sta accanto perché siamo nati alla fede attraverso l'amore del Padre. L'ho mandato audacemente al Signore questo tesoro, la virtù soprannaturale della carità, per esercitarla fin dai più piccoli particolari. Spesso noi cristiani non abbiamo saputo corrispondere a questo dono, talvolta lo abbiamo deprezzato, limitandolo ad una elemosina fredda, senza anima, o lo abbiamo ridotto a una beneficenza più o meno stereotipata. Riassume molto bene questa aberrazione il rassegnato lamento di una malata. Qui mi trattano con carità, ma mia madre mi curava con affetto. L'amore che nasce dal cuore di Cristo non può dare spazio a simili distinzioni. Per mettervi bene in testa incisivamente questa verità, ho predicato mille volte che non abbiamo un cuore per amare Dio e un altro cuore per amare le creature. Il nostro povero cuore di carne ama con un affetto umano che, se è unito all'amore di Cristo, è anche soprannaturale. Questa, non altra, è la carità che dobbiamo far crescere nell'anima e che ci porterà a scoprire negli altri l'immagine del Signore. La carità è universale. Nel dire prossimo, spiega San Leone Magno, non bisogna intendere soltanto coloro che sono legati a noi da vincoli di amicizia o di parentela, ma tutti gli uomini assolutamente con i quali abbiamo comunanza di natura. Uno solo è infatti l'autore che ci ha plasmato, uno solo è il creatore che ci ha vivificato. E tutti quanti abbiamo e godiamo lo stesso cielo e la stessa aria, gli stessi giorni e le stesse notti. Benché ci siano buoni e cattivi, giusti ed ingiusti, tuttavia Dio è ugualmente generoso e benigno con tutti. Noi, figli di Dio, ci forgiamo nella pratica del comandamento nuovo, impariamo nella Chiesa a servire e a non farci servire, e siamo in grado di amare l'umanità in modo nuovo, che tutti scopriranno essere frutto della grazia di Cristo. Il nostro amore non va confuso con il sentimentalismo, neppure con il mero cameratismo, e nemmeno con il desiderio poco chiaro di aiutare gli altri per dimostrare a noi stessi la nostra superiorità. È saper convivere col prossimo, venerare, insisto, l'immagine di Dio insita in ogni uomo, facendo in modo che anche lui la contempli e così sappia dirigersi a Cristo. Universalità della carità significa pertanto universalità dell'apostolato, capacità nostra di trasformare in opere e sul serio il grandioso impegno di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Se si devono amare i nemici, intendo coloro che ci considerano tra loro nemici, per quanto mi riguarda non mi sento nemico di niente e di nessuno. A maggior ragione bisognerà amare coloro che sono semplicemente lontani, coloro che ci sono meno simpatici, coloro che per motivi di lingua, di cultura, di educazione sembrano il mio o il tuo opposto. Di che amore si tratta? La Sacra Scrittura parla di dilezio, per fare capire bene che non si riferisce soltanto all'affetto sensibile. Dilezio esprime piuttosto una determinazione forte della volontà. Dilezio, infatti, deriva da elezio, scelta. Aggiungerei che amare da cristiani significa voler amare, decidersi in Cristo a cercare il bene delle anime senza discriminazioni di sorta, procurando loro innanzitutto la cosa migliore, portarli alla conoscenza di Cristo e innamorarli di Lui. Il Signore si sprona. Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Possiamo non sentirci umanamente attratti dalle persone che ci respingerebbero se le avvicinassimo. Ma Gesù esige da noi che non restituiamo male per male, che non lasciamo cadere le occasioni di servire gli altri di tutto cuore, anche se ci costa, che non cessiamo mai di tenerli presenti nelle nostre preghiere. La dilezio, la carità, acquista sfumature ancora più toccanti quando si riferisce ai nostri fratelli di fede, e specialmente a coloro che per disposizione divina lavorano più vicino a noi, i genitori, il marito, la moglie, i figli, i fratelli, gli amici, i colleghi, i vicini. Se non ci fosse questo affetto, questo amore umano nobile e pulito, ordinato a Dio e fondato in Lui, non ci sarebbe carità. Come si manifesta l'amore? Mi piace raccogliere queste parole che lo Spirito Santo ci ha comunicato per mezzo del profeta Isaia. Dicite benefacere, imparate a fare il bene. Applico questa esortazione ai diversi aspetti della nostra lotta interiore, perché la vita cristiana non può essere data per conclusa dal momento che la crescita nelle virtù è conseguenza di un impegno effettivo e quotidiano. In qualunque attività civile, come si fa a imparare? Innanzitutto valutiamo il fine da raggiungere e i mezzi da impiegare. Poi applichiamo con costanza tali mezzi, provando e riprovando fino a creare una disposizione radicata e solida. E mentre impariamo una cosa, ne scopriamo molte altre, di cui non sospettavamo l'esistenza, e che si stimolano a continuare il lavoro senza dire mai basta. La carità verso il prossimo è una manifestazione dell'amore verso Dio. Pertanto, nello sforzo per migliorare in questa virtù, non possiamo fissarci alcun limite. Con il Signore l'unica misura è amare senza misura. Da una parte perché non riusciremo mai a contraccambiare ciò che Egli ha fatto per noi. Dall'altra perché anche l'amore di Dio per le creature si manifesta così, sovrabbondante, senza calcoli, senza confini. A tutti coloro che sono disposti ad aprirgli l'ascolto dell'anima, e noi siamo di quelli, Gesù insegna nel discorso della montagna il comandamento divino della carità e a mo' di riassunto conclude: amate i vostri nemici, fate del bene e prestare senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro. La misericordia non si limita a un mero atteggiamento di compassione. La misericordia è sovrabbondanza di carità che simultaneamente comporta sovrabbondanza di giustizia. Misericordia vuol dire mantenere il cuore in carne viva, umanamente e soprannaturalmente perverso, pervaso da un amore forte, abnegato e generoso. San Paolo nel suo inno alla carità ne parla così. La carità è paziente, è benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. Una delle prime manifestazioni concrete della carità consiste nel dischiudere all'anima i cammini dell'umiltà. Se riteniamo sinceramente di essere nulla, se ci rendiamo conto che senza l'aiuto divino la più debole, la più inconsistente delle creature sarebbe migliore di noi, se ci vediamo capaci di tutti gli errori e di tutti gli orrori, se sappiamo di essere peccatori anche se combattiamo con impegno per prendere le distanze da tanta infedeltà, come possiamo pensare male degli altri? Come possiamo alimentare il cuore, il fanatismo, l'intolleranza e l'alterigia? L'umiltà ci conduce quasi per mano a quel modo di trattare il prossimo che è il migliore di tutti. Comprendere tutti, sapere convivere con tutti, scusare tutti, non creare divisioni né barriere, comportarsi sempre da strumenti di umiltà. Non invano, in fondo all'uomo esiste un forte anelito alla pace, all'unità con i propri simili e al reciproco rispetto dei diritti della persona, in una prospettiva che conduce alla fraternità. È un riflesso di ciò che vi è di più prezioso nella condizione umana. Se tutti siamo figli di Dio, la fraternità non si riduce al luogo comune o a ideale illusorio. Risplende come meta difficile, ma reale. Di fronte ai cinici, agli scettici, ai disamorati, a tutti coloro che hanno fatto della loro viltà un abito mentale, noi cristiani dobbiamo dimostrare che è possibile voler bene. Forse l'amore cristiano dovrà superare molte difficoltà, perché l'uomo è stato creato libero ed è in suo potere opporsi inutilmente e amaramente a Dio. Ma il comportamento cristiano è possibile e reale, perché nasce come conseguenza necessaria dell'amore di Dio per noi e di noi per Dio. Se tu e io lo vogliamo, anche Gesù lo vuole. E allora capiremo in tutta la loro profondità e in tutta la loro fecondità il dolore, il sacrificio, la dedizione interessata nella vita quotidiana. Esercitare la carità. Peccherebbe di ingenuità chi pensasse che le esigenze della carità cristiana siano facili da compiere. Ben diverso è il panorama che ci si presenta se consideriamo il comportamento abituale della società e purtroppo se guardiamo anche all'interno della Chiesa. Se l'amore non costringesse a tacere, tutti potrebbero fare lunghi elenchi di divisioni, di conflitti, di ingiustizie, di mormorazioni e di insidie. Dobbiamo ammetterlo con semplicità, per cercare di applicare il rimedio opportuno che deve tradursi nello sforzo personale di non ferire, di non trattar male, di correggere senza stroncare. Non sono cose nuove. Pochi anni dopo l'ascensione di Cristo in cielo, quando quasi tutti gli apostoli percorrevano ancora le vie del mondo e dappertutto regnava uno splendido fervore di fede e di speranza, già allora molti incominciavano a deviare, a non vivere la carità del Maestro. Dal momento che c'è fra voi invidia e discordia, scrive San Paolo ai Corinzi, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini che non capiscono che Cristo è venuto a portare per superare tutte queste divisioni? Ma cos'è mai Apollo? Cos'è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede, ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. L'Apostolo non respinge la diversità. Ciascuno ha ricevuto da Dio il suo proprio dono, chi in un modo e chi nell'altro. Ma queste differenze devono essere poste al servizio del bene della Chiesa. In questo istante mi sento spinto a chiedere al Signore, unitevi se volete a questa mia preghiera. Non permettete che nella sua Chiesa la mancanza d'amore sparga zizzania nelle anime. La carità è il sale dell'apostolato dei cristiani. Se diventa insipido, come potremmo presentarci al polpetto del mondo e spiegare a testa alta che qui c'è Cristo? Pertanto vi ripeto con San Paolo. Anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Di fronte a queste parole dell'Apostolo, delle genti, non manca chi come quei discepoli di Cristo, i quali, dopo che il Signore aveva annunciato loro il sacramento del suo corpo e del suo sangue, commentavano: questo è il linguaggio duro, chi può intenderlo? Sì, è duro, perché la carità descritta dall'Apostolo non si limita alla filantropia, all'umanitarismo, alla naturale commiserazione delle sofferenze altrui. Esige l'esercizio della virtù teologale dell'amore verso Dio e dell'amore per Dio verso il prossimo. Per questo, la carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutte la più grande è la carità. L'unica via. Ci siamo convinti che la carità non ha niente a che vedere con la caricatura che talvolta si è preteso di fare della virtù centrale della vita del cristiano. E allora perché è necessario predicarla continuamente? È forse un tema obbligato, ma con poche possibilità di tradursi in fatti concreti? Se ci guardiamo attorno, forse avremmo motivo di ritenere che la carità sia una virtù illusoria. Ma se consideri le cose con senso soprannaturale, scoprirai la radice di tanta sterilità, la mancanza di un rapporto intenso e continuo, a tu per tu, con Gesù Cristo, nostro Signore, è il misconoscimento dell'opera dello Spirito Santo nell'anima, il cui primo frutto è appunto la carità. Accogliendo un'esortazione dell'Apostolo, portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo, un padre della Chiesa aggiunge: amando Cristo sopporteremo con facilità la debolezza degli altri, anche di chi ancora non amiamo perché non ha opere buone. Da qui si inerpica il sentiero che ci fa crescere nella carità. Se pensassimo che la prima cosa da fare sia esercitarci in attività umanitarie, in lavori di assistenza, escludendo l'amore di Dio, saremmo in errore. Non trascuriamo Cristo per preoccuparci della malattia del nostro prossimo, già che dobbiamo amare il malato a motivo di Cristo. Mantenete sempre lo sguardo su Gesù, che senza lasciare di essere Dio, umiliò se stesso prendendo in forma di servo, per poterci servire, perché soltanto in questa direzione si dischiudono gli ideali che vale la pena alimentare. L'amore cerca l'unione, l'identificazione con la persona amata, e unendoci a Cristo saremo attratti dall'anelito di imitare la sua vita di dedizione, di amore incommensurabile, di sacrificio fino alla morte. Cristo ci mette davanti al dilemma definitivo: o consumare la propria esistenza in modo egoistico e solitario, o dedicarsi con tutte le forze a un compimento di servizio. Chiediamo adesso al Signore, a conclusione di questa conversazione con Lui, di concederci di poter ripetere con San Paolo: noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né vita né morte, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. A questo amore la Scrittura innalza un canto con parole ardenti: le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Quest'amore ha sempre ricolmato il cuore della Madonna, tanto da arricchirla di viscere di maternità per l'umanità intera. Nella Vergine, l'amore a Dio si confonde con la sollecitudine per tutti i suoi figli. Molto dovette soffrire il suo cuore dolcissimo, attento ai più piccoli dettagli. Non hanno vino, nell'assistere alla crudeltà collettiva, all'accanimento dei carnefici nella passione e morte di Gesù. Maria non parla. Come suo figlio, ama, tace e perdona. E questa è la forza dell'amore.